Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Lo scoprirete tra poco. Questa mattina a Salva Danaio c'è un po' il circolo delle streghe, perché siamo riunite qua tre donne per parlare di un tema abbastanza complicato e spinoso, però due validissime professioniste che questa mattina mi aiuteranno a districarci in tutte le novità normative che sono intervenute di recente, che riguardano un tema abbastanza oscuro per molti. Molti altri invece, loro malgrado, fanno spesso la scoperta di che cosa si tratti. Parliamo della commissione di massimo scoperto. L'ultima puntata a questo argomento l'abbiamo organizzata e dedicata a Salva Danaio appunto lo scorso mese di giugno, e l'avevamo introdotta così: è stato il pallino di Bersani, c'è tornato il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, ha rafforzato il monito il presidente dell'antitrust Catricalà, la commissione di massimo scoperto va abolita. Ma di cosa stiamo parlando? Detto in parole povere, se si va in scoperto di conto anche per un solo giorno, anche se abbiamo un fido concordato con la banca ci fa pagare i tassi sullo scoperto come se fossimo stati in rosso per tutto un trimestre. Immaginate che conseguenze può avere un trattamento del genere per un'impresa che con fidi e scoperti gestisce normalmente la sua attività. Questa era stata l'introduzione di allora, non è che siano cambiate molto le cose, la questione è vecchia, non è stata ridotta, non è stata risolta, era appunto compresa nella seconda lenzuolata di Bersani mai attuata. Perché è tornata la ribalta della cronaca? Perché c'è stato un intervento su questa questione nel provvedimento anticrisi del governo che è in corso di approvazione in Parlamento. Allora, quali novità ci attendono? Sono positive, sono negative? Per la verità c'è ancora un po' di confusione. Ma come dobbiamo comportarci se andiamo in rosso oltre il fido concordato con la banca e non ci tornano i conti sui tassi applicati appunto dalla banca stessa? Questa mattina cercheremo di fare chiarezza con un tema che però tanto chiaro non è, con l'aiuto dell'avvocato Gloria Gatti. Per la prima volta a Salva Danaio, benvenuta. Grazie. E mentre abbiamo un abitué del nostro microfono, Anna Vizzari, Ufficio Studi Economici e Giuridici di Altro Consumo, bentornata. Grazie. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Naturalmente, come sempre, un'occhiata in apertura anche alla borsa, che questa mattina sembra essere orientata piuttosto al positivo. Abbiamo un rialzo dell'1,48% a Parigi, Francoforte un po' meglio, più 1,70%, Londra più 1,74%. Londra oggi sotto i riflettori per il maxi piano di intervento a sostegno del sistema bancario che è stato annunciato dal governo britannico, e dall'altra parte però c'è anche la perdita più importante della sua storia, annunciata da Royal Bank of Scotland, circostanza che sta portando il titolo a crollare a Londra per l'appunto di oltre 20 punti percentuali, anzi adesso sono meno 30. La giornata dunque già ha una certa direzione per il settore, circostanza che peraltro porta con sé anche a Parigi titoli BNP Paribas meno 5%, Société Générale meno 3,84%, quindi gli indici vanno bene, ma per il settore finanziario sembra essere un'altra giornata nera. Piazza Affari, Milano appunto, S&P MIB più 1 sul principale paniere, Mittel in rialzo di un punto lo stesso, oggi giornata trainata da Enel più 3,94, STM più 3,60, Telecom più 3,59, Parmalat più 3,47, abbiamo 3 punti percentuali di rialzo su Unipol, Prismian più 2,54, il segno meno invece su Fastweb, che anzi sta perdendo sempre di più, meno 5,55, a distanza segue il ribasso del Banco Popolare. Abbiamo sentito le stime di crescita per quello che riguarda, non tanto crescita, anzi per quest'anno e l'anno prossimo, della Commissione Europea. Oggi chiusa Wall Street per il Martin Luther King Day. Direi di lasciare la borsa, andiamo subito dunque al tema di questa mattina. Torniamo sui nostri conti correnti, conti in rosso quando abbiamo bisogno di uno scoperto, di un fido bancario, sono sempre problemi con la banca, sentiamo. La croce dei correntisti costretti a vivere con il conto in rosso perenne, ma soprattutto di quelle imprese che con fidi e scoperti di conto spesso finanziano il proseguimento delle proprie attività. La commissione di massimo scoperto è quella remunerazione che il cliente paga alla banca come contropartita della possibilità di fare utilizzi per importi superiori alla giacenza depositata sul conto corrente. Già nel mirino delle liberalizzazioni di Bersani, la Commissione torna in primo piano dopo l'approvazione alla Camera del decreto anticrisi, che ha portato alcune modifiche alla normativa. Il provvedimento prevede la nullità delle clausole sulla commissione di massimo scoperto nel caso in cui il rosso sia inferiore ai 30 giorni. Stessa cosa accade a fronte di utilizzi in assenza di fido, che è tipicamente la situazione in cui si trova la maggior parte dei correntisti privati, mentre è tipico che le imprese concordino un fido già all'apertura del conto corrente. Vengono abolite poi le odiose provvigioni di conto, quelle clausole che prevedono una remunerazione per la banca per la messa a disposizione di fondi, indipendentemente però dall'effettivo prelevamento della somma. La questione della legittimità della commissione di massimo scoperto nasce dal rischio, già diventato realtà, del superamento dei limiti normativi sui tassi usurari stabiliti dalla legge del 1996. A reclamare l'uscita di scena della commissione, oltre alle associazioni dei consumatori, sono in particolare gli imprenditori e le famiglie stretti nella morsa dei debiti crescenti. Alle loro richieste si erano uniti a giugno scorso il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi e il presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà, che avevano definito la commissione di massimo scoperto iniqua e penalizzante per risparmiatori e imprese e per questo ne avevano chiesto l'abolizione. L'appello, però, fino a questo momento, è rimasto inascoltato. E infatti, nonostante i richiami più che autorevoli, la questione è tuttavia più che mai aperta, nonostante quest'ultimo intervento del governo che in qualche maniera interviene, ma sentiremo se ha chiarito definitivamente quale deve essere l'atteggiamento della banca nei confronti di chi ovviamente ha il problema di capitare in rosso qualche volta nel mese. E in realtà non ci sembra che l'intervento sia stato particolarmente chiaro, ma lo cercheremo di interpretare con i nostri interlocutori, anzi le mie interlocutrici di questa mattina. Però sentirei subito, per concretizzare, andare al nocciolo, alla ciccia del problema, sentirei subito Fulvio dalla provincia di Milano, così con un esempio molto chiaro facciamo capire a tutti di che cosa stiamo parlando. Fulvio, buongiorno, cosa è successo? Sì, dunque, molto semplicemente, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, buon anno. A me capita questo, io sono un lavoratore molto semplice, faccio uno dei lavori forse più prima importanti della, diciamo, d'Italia, che è il costruttore, muratore, per i costruttori lavoro. Io ovviamente vivo da solo e ho uno stipendio semplice, devo pagarmi affitto e tutto. Sono rimasto con uno scoperto di 3 euro per un giorno perché avevo dei pagamenti da fare e mi ritrovo la commissione, se non ricordo male, di circa 40 euro da pagare. Lei questo non aveva nessun fido con certo, anche a livello proprio diciamo personale. Ma direi, anche perché c'è proprio una totale, come dire, disparità, uno sbilanciamento enorme rispetto alle esigenze in cui lei si è trovato e poi l'onere che ci ha dovuto pagare. Lei comunque, Fulvio, a parte questo, non ha chiesto alla banca comunque un'elasticità per quello che riguarda la gestione del suo conto corrente? Non ha un conto affidato? Perché non ero mai arrivato a questo. Non le serviva, diciamo, giustamente, per cui lei dice non è... Esattamente. Non... Certo. Però adesso mi ritrovo praticamente una cifra di circa 40 euro per uno scoperto di un giorno, perché mi sono accorto di un giorno di 3 euro. Ditemi voi cosa posso fare. Sì, Fulvio, la ringrazio molto per la sua testimonianza, perché vedo già Anna Vizzari che come al solito si scandalizza, perché io direi che questo è un caso proprio tipico, sì, intorno al quale non possiamo che scandalizzarci, e credo che sia un po' anche, come dire, la casistica più comune esatto, che voi osservate da altro consumo. Sì, nel senso che il caso del signore che ci ha portato la sua testimonianza dimostra come la commissione di massimo scoperto sia soltanto una delle componenti che il cliente deve pagare quando va in rosso. Ha subito questo addebito di 40 euro non soltanto per la commissione di massimo scoperto, ma perché sono previste anche delle spese, delle penali che il cliente, quindi delle cifre fisse che il cliente deve pagare quando va in rosso. Quindi all'interno di questi 40 euro c'è una sicuramente serie di voci. C'è anche, oltre alla commissione di massimo scoperto, anche questa penale che molte banche applicano non soltanto per i conti non affidati ma anche per i conti affidati. Quindi diciamo che il provvedimento del governo risolve in parte queste problematiche. Adesso ci arriviamo allora, sì, all'intervento del governo. Avvocato Gatti, lei segue molti contenziosi, non dico del genere del nostro ascoltatore, che perché per uno scoperto di conto di 3 euro e una commissione poi che ci si ritrova, non è da 40, non credo che si vada all'avvocato per risolvere il contenzioso. Però questo, in un conto di un imprenditore che magari ha bisogno di una certa elasticità per la gestione del suo conto, per mandare avanti la sua attività imprenditoriale, se insomma si va in scoperto in un giorno, diventano problemi. Ma a prescindere da un giorno, due giorni o 30 giorni, quello che per me è importante chiarire è che la commissione di massimo scoperto deve essere giustificata da un rapporto di affidamento. Quindi non è legittima in tutti i casi in cui il conto corrente non è affidato, perché da un punto di vista giurisprudenziale la Cassazione ha avuto modo di chiarire che la commissione di massimo scoperto è la remunerazione che spetta alla banca per tenere a disposizione del cliente una determinata somma, a prescindere che questa persona ne faccia uso o meno. Mm. Quindi nel caso del signor Flavio, al quale chiaramente non si può consigliare di instaurare un contenzioso nei confronti della banca. È possibile che però sia allora tutta penale quella che ha pagato lui, non ci sia una commissione di massimo scoperto? No, di fatto nella prassi alcune banche applicano una commissione di massimo scoperto anche a dei conti che non sono affidati o quindi che non hanno correlato al conto corrente un contratto di apertura di credito in conto corrente, un contratto di sconto di effetti o un castelletto bancario per ad esempio anticipazione di fatture di contratti o cose di questo tipo. Però come la Cassazione ritiene e buona parte dei tribunali di merito comunque hanno già consacrato in parecchie sentenze, l'applicazione della commissione di massimo scoperto nel momento in cui non c'è un'apertura di credito è nulla per mancanza di causa, perché la remunerazione della banca per casi come quello del signor Flavio, ma come quello anche dell'imprenditore che comunque sconfina di 50.000 euro ma non ha un affidamento, non sono giustificate per mancanza di causa, perché la remunerazione della banca è soltanto l'interesse passivo. Quindi diciamo, intorno alla questione la giurisprudenza è intervenuta più volte negli ultimi anni, senza però mai delimitare anche o descrivere nel dettaglio quello che dovrebbe essere il comportamento bancario. Io la sintetizzo in maniera così molto semplicistica la questione, però mi sembra di capire che non ci sia stato mai un intervento secondo il quale alla banca viene detto, come magari è stato fatto con i mutui, poi le interpretazioni sono state tante, però intorno a questa questione si fa fatica a dire alla banca devi comportarti in un certo modo, e invece si lascia ancora, avvocato, ampia discrezionalità. Ma in realtà questo lo dovrebbe fare un testo normativo che dovrebbe andare a regolare puntualmente quando e se è giusto e in che modalità deve essere corrisposto un certo importo, che sia fisso, che sia percentuale, che sia onnicomprensivo, a una banca per il fatto di tenere a disposizione determinate somme per un determinato correntista. La giurisprudenza non può far altro che limitarsi a valutare se un comportamento di un istituto di credito o di un correntista è legittimo sulla base di un testo di legge vigente. Quindi nel nostro caso al momento non c'è nessuna norma vigente che regola l'applicazione della commissione di massimo scoperto, e nemmeno si ritrova nel testo unico bancario piuttosto che in tutta la normativa di dettaglio e ancora nel codice civile alcun riferimento che ci consenta di verificare se è corretto il modo in cui le banche applicano la commissione di massimo scoperto, le quali normalmente fanno riferimento agli usi, però sappiamo benissimo che la normativa sulla trasparenza bancaria impone che le condizioni siano espressamente approvate per iscritto e che quindi il correntista debba essere nella posizione di comprendere nel dettaglio termini, oneri e importi soprattutto, certo, che deve pagare. Deve sapere, conoscere magari e essere in grado di poter mettere a preventivo quello che potrebbe essere il problema economico che gli comporta andare in rosso in un determinato periodo e per quanto tempo, che cosa può ritrovarsi poi a dover pagare per affrontare una circostanza di questo tipo. Allora sentiamo anche un imprenditore, Silvio da Cuneo. Non ho ben capito se la sua richiesta è totalmente attinente al tema di questa mattina. Silvio, ci proviamo. Buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Bene, chiedo scusa perché sento male pochissimo la trasmissione al telefono. Dicevo, io volevo solo fare una domanda agli ospiti o chi è in grado di darmi una risposta. Spesso sento dei provvedimenti bancari presi dal governo finalizzati a migliorare il rapporto tra utente, nel mio caso imprenditore, e la banca, imponendo alle banche delle condizioni particolari, riduzioni dei tassi di interesse piuttosto che riduzioni, come in questo caso, di un balzello dovuto o meno, legittimo o meno, nei confronti diciamo dei correntisti. Ma a me è successo questo, proprio parlandone venerdì con il mio direttore di banca, lui mi dice: non c'è nessun problema, un fido di 30.000 euro lo abbassiamo a 20 e abbiamo risolto il problema. La stessa cosa vale per gli interessi sono scesi molto, ma comunque le imprese fanno fatica a trovare soldi per liquidità, sono aumentate tantissimo quelle che sono le richieste di garanzia che le banche affidano e soprattutto non riescono ad accedere al credito. Quindi tutte queste cose non rischieranno, è una domanda, di aumentare la difficoltà di accesso al credito soprattutto quello immediato, da parte delle piccole imprese? Questa è la mia domanda, grazie. Ma sentiamo come valutano questa sua considerazione le mie interlocutrici. Silvio, aspetti che sento il rientro di questa mattina. Adesso io non ho ben capito, non riesco a fare legame fra quello che ci diceva Silvio e il tema di oggi, però il tema è che, non so, forse in un momento delicato economicamente parlando come questo intervento del governo, comunque questa è una cosa che andava fatta, forse non ha neanche tanto legame con la come dire, congiuntura economica, però rischia di ulteriormente restringere i cordoni del credito da parte del sistema bancario verso in particolar modo gli imprenditori, come Silvio denunciava in questo momento. Anna Vizzari. Diciamo che nello stesso decreto ci sono altri provvedimenti che dovrebbero portare le banche ad offrire credito proprio in questo momento di congiuntura economica negativa, nel senso che è previsto anche che ci sia il controllo da parte della Banca d'Italia, e si diceva anche di qualche organo, non so se la Questura o il qualche organo comunque pubblica territoriale sicurezza. Che doveva controllare, avrebbe dovuto controllare l'accesso, la disponibilità di credito proprio per gli imprenditori. Penso che questa norma sia rimasta ancora nel decreto, poi ovviamente bisogna valutare se effettivamente questo controllo di accesso ci sarà, ecco. Tra l'altro volevo anche chiedere, esula un po' anche dal tema di questa mattina, una testimonianza all'avvocato Gatti, che ha a che fare, lavora con molti imprenditori che in questo momento stanno vivendo sulla propria pelle il credit crunch, utilizziamo sempre questa parola inglese, che ci ha, come dire, fatto scontrare in maniera abbastanza diretta con la crisi finanziaria attuale, comunque le banche che in questo momento sono in difficoltà ad accontentare chi chiede credito, e per gli imprenditori è un bel problema. Beh, sicuramente l'imprenditore, noi stiamo assistendo da ormai un decennio alla bancarizzazione dell'economia, e quindi dobbiamo fare i conti con i nostri imprenditori che ormai non fanno più attività di impresa con i soldi propri, ma fanno impresa con i soldi messi a loro disposizione dalle banche. Che questo sia completamente corretto o meno, io personalmente non lo condivido, perché credo che comunque una parte del rischio di impresa debba comunque sempre essere sostenuto dall'imprenditore. La situazione delle imprese italiane purtroppo è una situazione totalmente dipendente da quello che viene messo a loro disposizione dalle banche. Quindi è chiaro che nel momento in cui, vuoi per una congiuntura economica sfavorevole, perché ricordiamoci che è vero che le banche hanno una pubblica funzione, che è quella poi di promuovere il ricorso al credito e la tutela del risparmio, però è anche vero che comunque hanno un fine di lucro, quindi comunque devono avere un'utilità e un margine dal fatto di concedere credito agli imprenditori o in generale ai loro clienti. Quindi vuoi anche perché ormai con Basilea 2 i parametri per l'accesso al credito hanno comunque ristretto molto, come diciamo volgarmente, i cordoni della borsa da parte delle banche, gli imprenditori in questo momento si trovano ad affrontare dei momenti di grandissima difficoltà, soprattutto perché la congiuntura economica di questo momento, ritardi di pagamenti, effetto, certo, e quant'altro. Sulla base di queste considerazioni poi ci sono tutta una serie di valutazioni che entrano in gioco successivamente, che sono quelle che riguardano la condotta della banca, ossia la legittimità della banca nel momento in cui decide di ridurre affidamenti già accordati o di revocarli a un imprenditore, come il caso di Silvio, come nel caso di Silvio il direttore gli ha detto io ti do minor disponibilità, esatto, in quel caso la condotta della banca sarà legittima se l'azienda di Silvio avrà dimostrato un calo di fatturato, una serie di eventi tali per cui si presume che egli abbia bisogno di meno denaro per far fronte alla sua attività imprenditoriale. Se invece la problematica di Silvio è legata soltanto a ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, perché purtroppo oggi la maggior parte dei problemi per le imprese sono i ritardi nei pagamenti che il circolo dell'economia purtroppo che loro subiscono a loro, esatto, volta, certo, esatto, certo. Allora, ritornerei nel nostro seminato, anche se questo è un discorso molto interessante che ci piacerebbe esplorare un po' di più. Noi però torniamo al taglio consumatore. Gianpiero da Bologna, ritorniamo con una domanda sulla commissione di massimo scoperto oltre il fido, credo, in modo tale che mettiamo insieme un paio di interrogativi per poi ripartire nella seconda parte di Salvadanaio, definendo bene i limiti della questione per andare poi a capire che cosa cambia con l'intervento anticrisi. Gianpiero. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Io avrei bisogno di un chiarimento in merito alla commissione di massimo scoperto, in quanto sono trasportatore, ho un fido attuale di 10.000 euro e puntualmente ogni mese me lo applicano pur senza sforare il fido. Senza toccare il filo? Esatto. Lei va sforare vuol dire senza andare oltre. Lei non va oltre 10.000 euro di utilizzo. Esatto, però puntualmente mi addebitano sempre quei 10-12 euro perché ho una commissione dello 0,125 che insomma è buona come commissione. Che è quella però, forse più diffusa, sì. Credo, sì. Però non vedo perché me la debbano applicare. Ma lei ha chiesto chiarimenti al suo direttore, Giampiero, così tanto per capire? Io avevo chiesto chiarimenti in merito a abbassarmelo, perché prima era certo. 0,050, me l'ha portato 0,125. Ma no, dopo appunto, sentendo la vostra trasmissione, ho detto, cavolo, ma questi me li applicano anche se non adopero il surplus del fido, fuori fido. Invece sto sempre dentro i 10.000 e loro puntualmente, alla voce, commissione massimo scoperto, mi trovo sempre quei 10 infatti è il problema proprio intorno a cui ruota tutta la questione. Eccoci ritrovati in diretta, oggi siamo tornati su una questione sulla quale siamo anche andati qualche volta lo scorso anno, non ancora ridefinita, e sulla quale è intervenuto il governo di recente con il provvedimento anticrisi. Stiamo parlando di quella remunerazione che le banche si fanno riconoscere per l'utilizzo dello scoperto di conto, di un conto affidato, una remunerazione che da anni è oggetto di discussione sulla sua legittimità ed è la commissione di massimo scoperto. Allora, abbiamo sentito il caso di Giampiero da Bologna, un autotrasportatore che ha un conto affidato, credo per 10.000 euro. Lui dice: io non vado mai oltre l'utilizzo di questa somma che la banca mi mette a disposizione, eppure la commissione di massimo scoperto la pago come se praticamente lo facessi. Adesso io non ho capito bene la questione, mi faccio aiutare dalle mie interlocutrici di questa mattina, Anna Vizzeri, Ufficio Studi Economici Giuridici di Altro Consumo, e l'avvocato Gloria Gatti. Anna Vizzeri, allora intanto cerchiamo di capire che cosa succede al nostro ascoltatore, poi magari con l'avvocato Gatti andiamo a cercare di capire che cosa gli cambierebbe con la nuova normativa appunto che è in corso di discussione in Parlamento. Allora, il nostro radioascoltatore ha un conto con un fido che ha già accordato con la banca al momento dell'apertura del conto corrente. Su questo fido la banca, se è riportato nel contratto ed è stato fissato al momento dell'apertura, può applicare una commissione di massimo scoperto per la punta massima del debito del trimestre di solito, e che è una percentuale, nel caso del nostro radioascoltatore, lo 0,125%, mi pare di aver capito. Che ha già rinegoziato perché prima gli faceva pagare la banca qualcosa in più 0,50. Quindi diciamo che si tratta di 0,250, sì. Sì, si tratta di una commissione che può essere applicata alla banca. Nel caso in cui andasse oltre il suo utilizzo, andasse oltre il fido, probabilmente la banca gli applicherebbe una commissione di massimo scoperto più alta, ma non è detto. Che cosa succederà con le nuove disposizioni del decreto anticrisi? È previsto che nel caso in cui il debito quindi il conto corrente rimanga in rosso per un periodo non superiore a 30 giorni, questa commissione di massimo scoperto non dovrebbe essere applicata. Mm-hmm. Quindi se il caso di chi ci ha chiesto, insomma, consulenza è questo, cioè il fatto di rimanere in debito per un periodo inferiore ai 30 giorni, questa commissione non dovrà più essere applicata. Avvocato Gatti, questa è l'unica novità in discussione? No, in realtà facciamo un passo indietro e cominciamo a precisare che tutto quello di cui stiamo discutendo questa mattina dipenderà dalla approvazione da parte del Senato dell'emendamento approvato alla Camera del decreto 185 del 2008. Quindi ad oggi la situazione è ancora quella preesistente. Quella preesistente non era assolutamente chiara, nel senso che da un punto di vista giurisprudenziale si ritiene che la commissione di massimo scoperto sia la remunerazione che spetta la banca per tenere a disposizione una determinata somma di un soggetto che ha un affidamento e quindi un'apertura di credito in conto corrente o un rapporto equivalente, e che la remunerazione spetti a questo soggetto a prescindere dall'utilizzo o meno che il correntista faccia della somma che viene accantonata dalla banca nel caso in cui lui decidesse di utilizzarla. Questo è quello che ritiene la giurisprudenza. Nella prassi bancaria invece la commissione di massimo scoperto è una percentuale, nel caso abbiamo visto del nostro ascoltatore è dello 0,125, che viene applicata sul picco di massimo scoperto che un conto corrente tocca nell'arco del trimestre, quindi a volte anche per un solo giorno, a volte anche per giochi di valuta. Se io sono arrivata ai 10.000 euro che sono tutto il mio fido, io pagherò questa commissione di massimo scoperto. Sulla legittimità o meno di questa condotta si discute molto, perché comunque si ritiene, alcuni ritengono e probabilmente anche a ragione, che nel momento in cui un conto presenta una passività, la remunerazione della banca non può essere altro che costituita da un interesse passivo e quindi non avere ulteriori oneri o balzelli per quello che è il correntista. Io personalmente ritengo che sia corretto remunerare la banca per somme che deve tenere accantonate e che non vengono poi erogate, e quindi la banca non percepisce un interesse passivo, perché comunque la banca potrebbe impiegare questo denaro in altro modo e conseguirne più remunerativo per se stessa, certo. Esatto, quindi questa è la vera commissione di massimo scoperto. Quindi il nostro signor, non mi ricordo come si chiama, Giampiero, che utilizza tutto il suo fido, è il soggetto tipico che probabilmente più a ragione di altri è tenuto a pagare una commissione di massimo scoperto. Che cosa cambierà se verrà approvato l'emendamento al decreto 185? Cambierà che, appunto, come diceva Anna Vizzari, lo scoperto deve essere di 30 giorni consecutivi. Quindi se io vado in scoperto per un solo giorno o anche per 50 giorni, ma i giorni non sono consecutivi, io non sarò tenuto a pagare nessuna commissione di massimo scoperto. Non sarò tenuto a pagare una commissione di massimo scoperto se non ho un conto corrente affidato. Quindi, proprio per la teoria che spiegavamo prima, se io ho un conto corrente che non è affidato e, come il caso del primo ascoltatore che ha pagato 40 euro perché, per uno scoperto di 3 euro, non avendo un affidamento, lui non sarà tenuto a pagare nessun tipo di commissione di massimo scoperto. Anche se però poi corre il rischio, credo, di pagare forse altre penali più pesanti, più onerose. Anna Vizzari, qual è il suggerimento? Comunque di concordare uno scoperto di conto, un fido con una banca, qualora appunto si corre il rischio, si è nella consapevolezza di correre un rischio di questo tipo, o comunque non avventurarsi nell'esplorazione di un territorio di questo tipo e rischiare magari? Sì, no, quello che noi abbiamo visto è che i conti affidati hanno in genere delle condizioni migliori rispetto a quelli non affidati. Per cui probabilmente anche dal punto di vista dei tassi debitori, chi concorda un fido potrebbe avere un vantaggio sull'onerosità insomma del servizio. Il rischio che noi vediamo all'orizzonte con l'eliminazione parziale della commissione di massimo scoperto è che poi possano poi sorgere altre spese che magari potranno essere contrattate col cliente, però noi sappiamo che la banca è la parte forte del rapporto, per cui in realtà questa contrattazione è molto limitata, e che poi quindi potranno essere applicate in altro modo a sostituire la commissione di massimo scoperto. La novità grossa è che però tutto deve essere rendicontentato al cliente, scusate, quindi ci deve essere un'analisi dettagliata di che cos'è che viene applicato al cliente e degli utilizzi che lui fa, ed è questa un'altra novità delle disposizioni del decreto, per cui il cliente deve essere informato delle spese che gli verranno applicate e degli utilizzi che lui fa dello scoperto di conto corrente, a patto poi di capire questa rendicontazione, perché speriamo che sia chiara e trasparente, esatto. Perché l'obiettivo è anche questo. C'è Paolo da Venezia che attendeva da un po' e forse un caso simile rispetto a quello che abbiamo già ascoltato, Giampiero da Bologna. Paolo, benvenuto. Grazie, saluti a tutti quanti. Effettivamente la dottoressa che ha parlato poco fa ha praticamente detto quello che volevo dire io, che la commissione di massimo scoperto che viene applicata viene oltre a quello che si comunque paga la banca perché tenga a disposizione una somma. Quindi io pago trimestralmente alla banca giustamente anche un importo perché lei tenga a disposizione una certa quantità di denaro. Che lei usa o meno, Paolo, certo. Che uno può usare o meno. Il fatto che oltre a questo e oltre al tasso di interesse che viene applicato nel momento in cui io utilizzo la somma, ci sia anche una percentuale sul picco che viene raggiunto, non vedo nessun senso dal punto di vista proprio pratico. Guardi, la banca che l'utilizzo pratico lo vede come Paolo. Comunque sì, abbiamo capito, è esattamente questo il nocciolo della questione. Sembrerebbe una duplicazione di cose e di oneri, certo. Cioè che è l'interpretazione della Banca d'Italia, peraltro, Gloria Gatti. No l'interpretazione delle due. Allora, la prassi è una percentuale sul picco. Questa sì. È la prassi, ma non una somma forfettaria sull'accantonato. Nel caso del nostro correntista parrebbe che ci siano tutte e due, quindi una somma fissa che è il compenso della banca per tenere accantonata una somma che lui può utilizzare per il rischio che lui decide di utilizzarla, e una somma che lui invece paga sul picco di massimo scoperto trimestralmente. No, tra l'altro stavo guardando, adesso mi stavo confondendo, perché Luigi da Genova, cioè un ex funzionario di banca, che forse voleva precisarci, forse proprio il fatto che le commissioni di massimo scoperto sui fidi sono più di una, Luigi? Sì, ho fatto, sono stato funzionario e ho lavorato nei fidi per oltre 30 anni. Sì, intanto la commissione di massimo scoperto deve essere sempre concordata. Adesso, in secondo luogo, le commissioni di massimo scoperto per i conti che vengono affidati con la facilitazione di cassa sono solitamente due, una nell'ambito del fido e una extra fido. Mm-hmm. Voglio anche precisare che la commissione di massimo scoperto ha come funzione principale quello di scoraggiare l'utilizzo anelastico dello scoperto di conto corrente, perché il conto corrente utilizzato ciclicamente, se uno ha un fido di 20.000 euro che vada in rosso di 10.000, 15.000, poi ritorni in nero, se uno si inchioda il conto corrente sempre perennemente a 20.000 euro. Di certo, fuori. Luigi, no, comunque la cosa più interessante... Sì, dobbiamo chiudere perché ho suggerimenti per chi è in viaggio. Ce la fai in 20 secondi, Luigi? Sì, volevo dire che forse il problema si può risolvere stabilendo il concordato dei tassi di interesse differenziali nell'ambito del fido. Un conto se il fido è di 20.000 euro, fino a 15.000 euro, con un tasso del 4,5, facciamo per esempio, e fare il 4,625 dai 15.000 ai 20.000. Luigi, prendiamo atto dei suoi suggerimenti. Io mi sono per la verità un po' persa perché forse mi sono focalizzata sulla prima parte del suo intervento, quello che... raccontava appunto sulla base anche della propria esperienza, spiegava come effettivamente anche su queste cose ci si possa sempre venire incontro tra banca e cliente, si possano concordare anche se ci sono poi delle percentuali intorno alle quali insomma mediamente si lavora. Allora, stavamo discutendo dei suggerimenti che ci ha fornito l'ex bancario che abbiamo sentito poco fa. Il tema però più importante dal quale lui è partito, anche sulla commissione di massimo scoperto sugli oneri da versare per un scoperto di conto o la concessione di un fido, comunque è bene sempre instaurare una trattativa con la banca e non fare in modo insomma che la banca, benché sia sempre la parte forte in tutte le trattative, non poggi nelle sue convinzioni esclusivamente su tassi già fissati. Anna Vizzari. Sì, è quello che diciamo sempre, cioè il cliente deve comunque provare a trattare con la banca, quello indubbiamente, magari attivando anche la leva della concorrenza, quindi magari visitando più operatori e verificando quali sono le loro condizioni anche per il rosso di conto corrente. È pur vero però che in queste situazioni, quando il cliente è rosso, si trova in una situazione... Deve rientrare diciamo così, prima di andarsene, infatti. Esatto, quindi una situazione veramente di parte debole. E probabilmente quello che bisogna soprattutto chiedere al cliente è quello di verificare fin dall'inizio quali sono le condizioni che gli verranno applicati quando andrà in rosso. Il problema è che all'inizio si capisce ben poco di quello che la banca ci spiega, perché poi scopriamo amaramente poi a posteriori quello che poi è appunto l'onere che dobbiamo sostenere. Ci sono anche alcune mail che ci stanno arrivando da parte di imprenditori. C'è un ascoltatore, Francesco, che ci racconta la sua esperienza, un artigiano di Torino. È una mail piuttosto lunga. Allora, nel frattempo noi sentiamo Carlo dalla provincia di Treviso, poi se riesco leggo anche questa mail. Carlo, benvenuto. Eccolo qua, Carlo è caduto. Adesso allora ne recuperiamo altri. Leggo la mail di Francesco. Io non avrei bisogno delle banche se i clienti facessero pagamenti a 30 giorni come nel resto dell'Europa, e questa è un'altra faccia di una triste medaglia della crisi finanziaria. Esatto, anche la pubblica amministrazione. Solo che in Italia le piccole e medie imprese fanno da banca le grandi imprese allo Stato, che hanno tempi di pagamento fra i 120 e i 360 giorni. Qui ritorna anche magari proprio la questione della valuta, no? Esatto. Mentre i nostri fornitori non li paghiamo a 30-60 giorni. Vorrei sapere se come sarebbe possibile lavorare senza banche. Beh sì, insomma, questo è un tema sul quale siamo non ha una domanda, il nostro ascoltatore voleva banalmente fare una considerazione sulla situazione attuale. Allora, non abbiamo Carlo da Treviso, l'abbiamo recuperato, eccolo qui Carlo. Sì, intanto buongiorno, no? Buongiorno, grazie a lei di avermi richiamato. Allora, Paolo da Venezia, diciamo, ha centrato un momentino il problema, che era il discorso della commissione trimestrale per l'affidamento, che quello lì è la garanzia, o meglio la remunerazione per la disponibilità, diciamo, del fido in sì. questo caso. Ecco, in più, diciamo, c'è la commissione in massima scoperto, che può essere entro il fido o, diciamo, extra fido in quei casi. Perciò la risposta me l'avete in un certo senso, o ne avete parlato, perché mi pareva che fino a quel momento nessuno ne aveva tirato fuori questo tipo di commissioni. Quindi Quindi allora definiamo una volta per tutte la questione. Anna Vizzari, ricominciamo. Quindi Giampiero da Bologna, come Carlo da Treviso, chiedono alla banca di avere una disponibilità di andare in rosso per 10.000 euro. Come deve essere gestito questo conto affidato? Allora, avranno ovviamente dei tassi debitori applicati per i giorni in cui andranno in rosso. Spesso è richiesta una penale proprio per il fatto che la banca dà la disponibilità di questo fido o perché si va in rosso. Quindi c'è anche una spesa ulteriore rispetto ai tassi debitori. E c'è poi la commissione di massimo scoperto, che questa percentuale è applicata alla banca sulla punta massima del debito del trimestre. Quindi sono tre componenti, diciamo così, di costo che si sommano insieme e danno la spesa complessiva per il rosso di conto corrente. Quando si va fuori dal fido, spesso le condizioni sono ancora peggiori, nel senso che la commissione di massimo scoperto aumenta e anche le spese che vengono applicate aumentano. Dipende moltissimo però ovviamente dalla banca, queste condizioni sono molto variabili. Magari da banca dipende a banca. Anche dal fatto di avere più o meno un dialogo con la banca, si può anche avvisare per tempo che potrebbe esserci il rischio che la situazione degeneri e magari lì la banca potrebbe essere anche un pochino più elastica, non che ovviamente ci possa offrire chissà quali condizioni, però quantomeno se è avvisata, avvertire. Forse le conseguenze, esatto. No, volevo anche sentire Sandro dalla provincia di Macerata prima di ritornare all'avvocato Gatti. Sandro. Sì, buongiorno. Ci dica. Sì, volevo un attimo andare al concreto delle cifre di cui state parlando, perché mi sembra che sia un po' sul vago. Nel senso, su un conto corrente, un estratto trimestrale, sì. Con un affidamento di 10.000 euro utilizzato per 3, 4, 5.000 euro mediamente, 2, sì. 3.000, ad un interesse debitorio del 9% per esempio, sì. Poi viene fuori magari alla fine dei tre mesi che uno pagando 50 euro di interessi debitori ne paga 24 di massimo scoperto. Sì, e quindi arriviamo a quasi 80, Sandro. Per cui aveva una domanda oppure insomma ci sta solamente dicendo non andate al concreto della questione, non abbiamo fatto numeri, abbiamo fatto solamente un esempio. Sì. I numeri reali significano che c'è un aggravio di quasi il 50% rispetto, perché io pago il 50% in più, 50-24 è 9-13,5% di interesse debitorio. Aspetti lì Sandro, sì, avvocato Gatti. Ma questo può essere, l'esempio citato dal nostro ascoltatore può essere interessante per introdurre una spiegazione sulla modifica che potrebbe essere introdotta. Con la quale la Camera ha chiarito che la commissione di massimo scoperto è rilevante ai fini della legge 108 del 96, quindi della legge antiusura, del reato di usura e dell'articolo 1815 del Codice Civile, che stabilisce la nullità degli interessi quando sono usurari. Mm-hmm. Questo perché? Perché si è molto discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza, se la commissione di massimo scoperto costituisse o meno interesse e quindi se andasse computata ai fini della verifica se un determinato tasso applicato fosse all'interno o meno dei tassi soglia antiusura. Quindi il caso del nostro ascoltatore, che si vede un onere che è quasi raddoppiato rispetto a quello che è l'interesse passivo debitore del conto corrente, può essere sintomatico, nel senso che se ovviamente con tutte le cautele del caso entrerà in vigore la legge così come emendata dalla Camera, lui potrà verificare se la cifra, l'importo che andrà a pagare alla fine di ogni mese andrà a toccare quelli che sono i cosiddetti tassi soglia. Mm-hmm. Come si fa a controllarlo? Vengono pubblicati dalla Banca d'Italia, sì, ogni trimestre, però c'è una pecca su questo, diciamo così, disposizione, nel senso che il tasso soglia dipende anche dai tassi medi per la categoria, quindi se tutti aggiungono la commissione di massimo scoperto ai tassi debitori e questo è rilevato alla Banca d'Italia, anche il tasso soglia aumenterà. Quindi diciamo che la soluzione non penso che si trovi soltanto con questa disposizione. È molto più interessante capire se effettivamente la commissione verrà annullata e se le banche poi non compenseranno questa riduzione in altro modo con altre spese. Però mi pare che al momento, qualora la normativa passi nella sua formulazione attuale, non c'è la strada dell'eliminazione totale, no? Che era la strada invece che era stata tentata da Bersani con la seconda lenzolata, come abbiamo detto. Scusate, c'è un'eliminazione in realtà totale per i conti non affidati. Ah sì. quindi sarà semplicemente un onere dei conti affidati. Non si chiamerà più commissione di massimo scoperto, la chiameremo in un altro modo, immagino. Il dubbio è questo, il timore è questo. Esatto, la commissione di massimo scoperto non ci sarà per i conti non affidati, ma ci potranno essere altre spese. Ecco, per cui cioè, poi il nostro timore è quello, cioè che poi alla fine il tutto. Però è anche giusto che ci sia, no? Oh no, cioè a nostro avviso i tassi debitori sono già sufficienti a compensare questo servizio, soprattutto per i consumatori, nel senso che si tratta comunque di solito di diciamo così rossi limitati che vengono compensati con l'arrivo dello stipendio o di altre entrate, quindi per i consumatori diciamo che si tratta veramente di un servizio molto limitato, per cui forse le banche potrebbero anche eliminarlo completamente. Michela da Matera chiude la nostra trasmissione con una considerazione relativa al linguaggio usato dalle banche quando ci andiamo a parlare. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Rapidissimo, allora, se può, perché stiamo chiudendo, sì. Sì, rapidissimo, solo per dire che si gira molto sul concetto di commissione di massimo scoperto, piuttosto che di spese di istruttoria, piuttosto che di tasso applicato, tasso bario, cioè il tasso che poi pagano i consumatori o i clienti in genere. Il presupposto è questo, che comunque la controparte nei rapporti con la banca è una situazione di debolezza. Allora, così come avviene nell'ambito di qualsiasi rapporto commerciale, sarebbe opportuno e forse logico individuare un unico prezzo che è dato appunto dal tasso, così come avviene quando in qualsiasi altro scambio di natura commerciale, vale negli appalti, vale nell'acquisto di un bene di consumo. Michele, in questo caso io so che il prezzo che devo pagare è X, quindi in questo caso che infatti. Tasso, e con la massima trasparenza posso io aggiungere? Ho un dato Michele, sì. Che la devo salutare purtroppo perché devo chiudere, ma queste due belle donne davanti a me hanno annuito. Anna Vizzeri, no, sì, vi do 15 secondi a testa. Aggiungere che una soluzione si potrebbe trovare con la nuova direttiva sul credito al consumo, che parla anche di scoperti e che introduce il concetto di tag anche per lo scoperto. Il tag potrebbe essere un indicatore sintetico del costo. Peccato però che spetta poi agli stati membri decidere se anche definire il tag per gli scoperti. È una disposizione libera. Per cui noi ci auguriamo che l'Italia, da questo punto di vista, si faccia portavoce. Altre leggi in arrivo, insomma, nel nostro rapporto tra banca e cliente, già vedo cosa potrà succedere. Gloria Gatti, 10 secondi per concludere, che dia si è fatta rispetto a tutto quello che ha sentito anche dai nostri ascoltatori. Ma io purtroppo onestamente credo che il fatto che ci sia la possibilità di concludere contratti comprendenti nuove condizioni di massimo scoperto non possa essere così visto come una notizia così positiva per i nostri consumatori. Quello che tuttavia mi auguro è che in sede di emendamento si riesca a trovare una definizione più chiara per andare a precisare alcune cose che non sono chiare nell'attuale articolo 2 bis. E poi io mi permetto anche di dire, insomma, introdurre questa questione in un pacchetto anticrisi che ha evidentemente connotati di urgenza e velocità, forse non è stata proprio l'idea migliore. In ogni caso, dopo il 28 gennaio, chissà che non dovremo tornare a parlare di questa questione, grazie per essere stati con noi. Rapidamente chiudo perché sono in ritardo, a domani.